A Roma i due studenti andarono ad abitare il terzo piano di una casa in Piazza della Consolazione, presso una vedova, madre di due graziose ragazze telegrafiste, maestre, dattilografe, civette. I due studenti dormivano nella stessa camera, vasta ma poco allegra, divisa da una specie di paravento formato con una coperta gialla. La loro finestra guardava su un cortile interno. La prima volta che Anania guardò da quella finestra provò un senso disperato di sgomento. Non vedeva che muri altissimi, di un giallo sporco, bucati da lunghe finestre irregolari e panni miseri di un candore equivoco, appesi a fili di ferro. Uno di questi fili, con anelli scorrevoli, dai quali pendevano laccetti di spago attorcigliati, passava davanti alla finestra degli studenti. Mentre Anania guardava con disperata tristezza i muri perdentisi sul pallido cielo della sera, Battista Daga scosse il filo e cominciò a ridere. «Guarda, Ninnia, guarda come gli anelli e i laccetti di spago ballano, sembrano vivi! Così è la vita, eh? Un filo di ferro attraverso un cortile sporco. Gli uomini si agitano, sospesi sopra un abisso di miserie. Ah, non rompermi le scatole!» disse Anania. «Sono abbastanza melanconico. Usciamo, mi pare di soffocare!» Uscivano, camminavano, si stancavano, storditi dal rumore delle carrozze e dallo splendore dei lumi, dal passaggio violento e dal rauco urlo delle automobili. Anania si sentiva triste tra la folla. Gli pareva d'essere solo in un deserto e pensava che se si fosse sentito male e avesse gridato, nessuno lo avrebbe udito e soccorso. Ricordava Cagliari con nostalgia struggente. Oh, balcone incantato, orizzonte marino, dolce occhio di Venere. Qui non esistevano più né stelle, né luna, né orizzonte, solo un disgustoso ammasso di pietre, un pullulamento di uomini che allo studente barbaricino parevano di una razza diversa e inferiore alla sua. Veduta attraverso lo sbalordimento, la stanchezza dei primi giorni, la suggestione melanconica del buio appartamentino di Piazza della Consolazione, Roma gli dava una tristezza quasi morbosa. Nella città vecchia, dalle vie strette, dalle botteghe puzzolenti, dagli interni miserabili, dalle porte che parevano bocche di caverne, dalle scalette che sembrava si perdessero in un tenebroso luogo di dolore, egli ricordava i più miseri villaggi sardi. Nella Roma Nuova si sentiva smarrito, tutto gli appariva grande, le strade tracciate dai giganti per giganti, le case montagne, le piazze tancas sarde. Anche il cielo era troppo alto e troppo profondo. Anche all'università, dove egli cominciò a frequentare assiduamente i corsi di diritto civile e penale e le lezioni di Enrico Ferri, lo aspettava una delusione. Gli studenti non facevano altro che rumoreggiare e ridere e beffarsi di tutto. Pareva si beffassero della vita stessa, specialmente nell'aula 4, mentre si aspettava il Ferri, il chiasso e il divertimento oltrepassavano il limite. Qualche studente saliva sulla cattedra e cominciava una parodia di lezione, accolta da urli, fischi, applausi, grida di «Viva il Papa! Viva Sant'Alfonso dei Liguori! Viva Pio IX!» Qualche volta lo studente dalla cattedra, con una faccia tosta indescrivibile, imitava il miagolar del gatto o il canto del gallo, e allora le grida e i fischi raddoppiavano. Venivano lanciate pallottole di carta, pennine, fiammiferi accesi, finché l'arrivo del professore, accolto da applausi assordanti, metteva fine alla scena. Anania si sentiva solo, triste fra tanta gioia, e gli sembrava di appartenere a un mondo diverso da quello dove era costretto a vivere. Solo quando il professore cominciava a parlare, egli provava una commozione profonda, quasi un senso di gioia. Fantasmi di delinquenti, di suicidi, di donne perdute, di maniaci, di parricidi passavano, evocati dalla voce possente del professore davanti al pensiero turbato di Anania. E fra tante figure, egli ne distingueva una che passava e ripassava davanti a lui ad occhi bassi, ma invece di fissarla con orrore, egli la guardava con pietà, col desiderio di stenderle una mano. Una sera lui e il Daga attraversavano Via Nazionale. Lo splendore delle lampade elettriche si fondeva col chiarore della luna, le finestre del palazzo o della banca erano tutte vivamente illuminate. «Sembra che tutto l'oro racchiuso nella banca brilli attraverso le finestre», disse Anania. «Ma bravo! Si vede che la mia compagnia ti dirozza!» «Oh, sono più che mai romantico stasera. Andiamo al Colosseo!» E andarono. Si aggirarono a lungo nel divino mistero del luogo, guardando la luna attraverso ogni arco. Poi Poi sedettero su una colonna lucente e sospirarono entrambi. Io sento una gioia simile al dolore, disse Anania. Il Daga non rispose, ma dopo un lungo silenzio disse: Mi sembra di essere nella luna. Non ti pare che nella luna si debba provare ciò che si prova qui, in questo gran mondo morto? Sì, disse Anania con voce flebile. Questa è Roma. Al ritorno passarono ancora per via nazionale, chiacchieravano in dialetto, era tardi e su e giù, attraverso i marciapiedi quasi deserti, vagavano molte farfalle notturne, così le chiamava il Daga. A un tratto una di esse passò accanto a loro e li salutò in dialetto sardo. Buonas tardes, pizzocheddos. Era alta, bruna, con grandi occhi cerchiati. La luce elettrica dava al suo piccolo viso, emergente dal collo di pelo di un soprabito chiaro, un pallore cadaverico. Come a Cagliari, la sera in cui Rosa e la compagna lo avevano fermato, Anania sussultò, preso da un senso d'orrore, e trascinò via il Daga che rispondeva insolentemente alla donna. Era lei? Poteva essere lei? Era una sarda? Poteva essere lei? 2. Sdraiato sul suo lettuccio, dopo ore ed ore di amarezza, di dubbio, di opprimente melanconia, egli pensava: È inutile illudermi, non sono pazzo, no, ma non posso più vivere così, bisogna che io sappia. Oh, fosse morta, bisogna che io cerchi. Non sono venuto a Roma per questo. Domani, domani, dal giorno che arrivai, ripeto questa storia e l'indomani arriva ed io non faccio niente, ma che posso fare? Dove devo andare? E se la trovo? Ah, era di questo che gli aveva paura. Non voleva neppure pensare a quanto poteva accadere. Dopo. Improvvisamente si domandò: E se mi confidassi col Daga? Se io ora gli dicessi: Battista, devo uscire, devo recarmi in questura per chiedere informazioni. Ah, non ne posso più. Sono tanti e tanti anni che io trascino con me questo peso. Ora vorrei liberarmene, gettarlo via come si getta un carico opprimente, liberarmene, respirare. Bisogna snidarlo, questo verme roditore. Mi diranno che sono uno stupido, mi convinceranno che lo sono, mi diranno di smettere. Ebbene, tanto meglio se mi convinceranno. Che giornata triste. Il cielo si abbassa, sempre più. Avrei sonno. Bisogna che io vada subito. Pioveva dirottamente. Anche il Daga sonnecchiava sul suo lettuccio al di là del paravento. Battista, disse Anania sollevandosi col gomito sul guanciale, tu non esci? No. Mi presti il tuo ombrello? Sperava che il compagno gli chiedesse dove voleva andare con quel tempo orribile, ma il Daga disse: Non potresti farmi piacere di comprartene uno? Anania sedette sul letto rivolto al paravento e mormorò: Devo andare in questura. E sperò ancora che una voce fraterna gli chiedesse il suo segreto. Ecco, egli palpitava già pensando come cominciare, ma attraverso il paravento una voce beffarda chiese: Vai a far arrestare la pioggia? Il segreto gli ripiombò sul cuore, più amaro e grave di prima. Ah, non un paravento, ma una muraglia insuperabile lo divideva dalla confidenza e dalla carità del prossimo. Non doveva chiedere né aspettare aiuto da nessuno, doveva bastare a se stesso. S'alzò, si pettinò accuratamente e cercò nel cassetto la sua fede di nascita. Prendilo pure l'ombrello, ma perché vai? Chiese l'altro, sbadigliando. Egli non rispose. Sulle scale buie si fermò un momento, ascoltando lo scroscio sonoro dell'acqua sull'invetriata del tetto. Pareva il rombo di una cascata, che dovesse di momento in momento precipitarsi entro la casa già inondata dal fragore dell'imminente rovina. Una tristezza mortale gli strinse il cuore. Uscì e vagò lungamente per le strade lavate dalla pioggia. Salì su per una viuzza deserta, passò sotto un arco nero. Guardò con infinita tristezza i chiaroscuri umidi di certi interni, di certe piccole botteghe, nella cui penombra si disegnavano pallide figure di donne, di uomini volgari, di bimbi sudici. Antri ove i carbonari assumevano aspetti diabolici, dove i cestini di erbaggi e di frutta imputridivano nell'oscurità fangosa, e il fabbro, il ciabattino e la stiratrice si consumavano nei lavori forzati. In un luogo di pena più triste della galera stessa. Anania guardava, Ricordava la catapecchia della vedova di Fonni, la casa del mugnaio, il molino, il misero vicinato e le melanconiche figure che lo animavano, e gli pareva d'essere condannato a vivere sempre in luoghi di tristezze, tra immagini di dolore. Dopo un lungo ed inutile vagabondare, rientrò a casa e si mise a scrivere a Margherita. Sono mortalmente triste. Ho sull'anima un peso che mi opprime e mi schiaccia. Da molti anni io volevo dirti ciò che ti scrivo adesso. In questo triste giorno di pioggia e di melanconia, non so come tu accoglierai la rivelazione che sto per farti, ma qualunque cosa tu possa pensare, Margherita, non dimenticare che io sono trascinato da una fatalità inesorabile, da un dovere che è più terribile di un delitto. Arrivato alla parola delitto, si fermò e rilesse la lettera incominciata. Poi riprese la penna, ma non poté tracciare altra parola, vinto da un gelo improvviso. Chi era Margherita? Chi era lui? Chi era quella donna? Cosa era la vita? Ecco che le stupide domande ricominciavano. Guardò lungamente i vetri, il filo di ferro, gli anellini, i lacci bagnati e saltellanti su uno sfondo giallastro e pensò: se mi suicidassi? Lacerò lentamente la lettera, prima in lunghe strisce, poi in quadrettini che dispose in colonna, e tornò a fissare i vetri, il filo di ferro, i laccetti che parevano marionette. Rimase così finché la pioggia cessò, finché il compagno lo invitò ad uscire. Il cielo si rasserenava, nell'aria molle vibravano i rumori della città rianimatasi e l'arcobaleno si incurvava, meravigliosa cornice sul quadro umido del Foro Romano. Al solito, i due compagni salirono per via nazionale e il Daga si fermò a guardare i giornali davanti al Garroni, mentre Anania proseguiva distratto andando incontro ad una fila ciangottante di chierici rossi, uno dei quali lo urtò lievemente. Allora egli parve destarsi da un sogno. Si fermò e aspettò il compagno mentre i chierici si allontanavano e il riflesso dei loro abiti scarlatti dava uno splendore sanguigno al lastrico bagnato. Nella mia infanzia ho conosciuto il figliolino di un bandito famoso. Il bimbo era già arso da passioni selvagge e si proponeva di vendicare suo padre. Ora invece ho saputo che si è fatto frate. Come tu spieghi questo fatto? Domandò Anania. Quell'individuo è pazzo, rispose il Daga con indifferenza. Ebbene, no, riprese Anania animandosi. Noi spieghiamo o vogliamo spiegare molti misteri psicologici dando il titolo di matto all'individuo che ne è soggetto. Perlomeno, però, è un monomaniaco. D'altronde anche la pazzia è un mistero psicologico complicato, un albero il cui ramo più potente è la monomania. Ebbene, ammetto, ma l'individuo in questione aveva la monomania del banditismo, aggiungi monomania atavica. Facendosi frate, egli, sebbene uomo quasi primitivo, ha voluto liberarsi dal suo male. E finirà con l'impazzire davvero quel frate. Un uomo cosciente, colto dal malanno di un'idea fissa qualunque, deve liberarsene, secondandola. Tu forse hai ragione, disse Anania, pensieroso. E non parlo più, finché non arrivarono all'angolo di via Agostino de Pretis. Allora disse, svoltando strada, voglio prendere, mi hanno incaricato di prendere l'indirizzo di una persona, devo andare in questura. Il compagno lo seguì curioso. Chi è questa persona? Chi ti ha incaricato? È del tuo paese? Ma Anania non si spiegava. E arrivati davanti a Santa Maria Maggiore, il Daga dichiarò che non sarebbe andato oltre. Allora aspettami qui, disse Anania senza fermarsi. Ti dirò poi. Messo in curiosità, il Daga lo seguì per un tratto, poi lo aspettò sulla gradinata della chiesa. Il dado è gettato? Chiese con enfasi quando Anania ricomparve, ma nonostante le sue domande e i suoi scherzi, non riuscì a sapere che cosa il suo compagno era andato a fare in questura. Appoggiato al muro, Anania guardava l'orizzonte e ricordava la sera in cui bambino era salito sulle falde del Gennargentu ed aveva veduto un pauroso cielo tutto rosso animato da spiriti invisibili. Anche adesso sentiva un mistero aleggiargli intorno e la città gli sembrava una foresta di pietra attraversata da fiumi pericolosi e sentiva paura. 3. Sì, come si legge nelle vecchie storie romantiche, il dado era gettato. La questura, Dopo la domanda e le indicazioni di Anania, fece ricerca di Rosalia de Rios e verso la fine di marzo informò allo studente che al numero tale di via del seminario, all'ultimo piano, abitava una donna sarda, affittacamere, il cui passato e i connotati corrispondevano a quelli di Olì. Questa signora si chiamava o si faceva chiamare Maria Obinu, nativa di Nuoro. Abitava in Roma da 14 anni e nei primi tempi aveva vissuto un po' irregolarmente. Da qualche anno però menava vita onesta, almeno in apparenza, affittando camere mobiliate e facendo pensione. Anania non si commosse troppo nel ricevere queste informazioni. I connotati combinavano, egli non ricordava precisamente la fisionomia di sua madre, ma ricordava che lei era alta, coi capelli neri e gli occhi chiari, e la Obinu era alta, coi capelli neri e gli occhi chiari. Inoltre gli sapeva che a Nuoro non esisteva alcuna famiglia Obinu e che nessuna donna nuorese viveva o affittava camere a Roma. Evidentemente quindi la Obinu falsava il suo nome e la sua origine. Tuttavia egli sentì che la donna indicatagli dalla questura non era, non poteva essere sua madre. Questa non viveva a Roma dal momento che la questura non riusciva a scoprirla. Dopo giorni e mesi di attese e di ansia, egli provò come un senso di liberazione. La primavera penetrava anche nel cortile melanconico di Piazza della Consolazione, in quell'enorme pozzo giallo esalante odori di vivande, animato dal canto delle serve e dal gorgheggio dei canarini prigionieri. L'aria era tiepida e dolce, sul cielo azzurro passavano nuvolette rose e il vento portava fragranze di rose e di viole. Affacciato alla finestra, Anania si abbandonava ai suoi sogni nostalgici. L'odore delle viole, le nuvole rosee, il tepore della primavera, tutto gli ricordava la terra natia, i vasti orizzonti, le nuvole che dalla finestra della sua cameretta egli vedeva affacciarsi o tramontare fra gli elci dell'orto bene. Poi ricordava la pineta di Monte Urpino, il silenzio delle cime coperte da sfodeli e di iris violette, il mistero dei viali vigilati dal puro sguardo delle stelle e la figura diletta di Margherita dominava i freschi paesaggi natii, circondata di asfodeli e di gigli selvatici, coi capelli di rame sfumati nel fulgore del cielo metallico. La primavera romana non lo commuoveva che per le rimembranze. Gli sembrava una primavera artificiale, troppo ardente e luminosa, troppo abbondante di fiori e di profumi. Piazza di Spagna, ornata come un altare, con la scalinata coperta di petali di rose mosse dalla brezza, il pincio con gli alberi avvolti di fiori violacei, le vie profumate dai cestini di narcisi e di ranuncoli che le fioraie, ferme sull'orlo dei marciapiedi, offrivano ai passanti. Tutta questa ostentazione, tutto questo mercato della primavera dava allo studente l'idea di una festa banale che a lungo andare rattristava e disgustava. La primavera palpitava al di là dell'orizzonte. Giovinetta selvaggia e pura, ella scorazzava attraverso le tancas coperte d'erbe alte aromatiche e cantava con gli uccelli palustri in riva ai torrenti e scherzava coi mufloni e con le lepri fra i ciclamini, sotto le immense querce sacre ai vecchi pastori della Barbagia. E si addormentava all'ombra delle rocce fiorite di musco, nei voluttuosi meriggi, mentre intorno al suo letto di felci e di pervinche gli insetti dorati ronzavano, amandosi, e le api suggevano le rose canine, estraendo il miele amaro, amaro e dolce come l'anima sarda. Anania amava e viveva in questa primavera lontana, seduto accanto alla finestra, guardava le nuvolette rosee e si immaginava di essere un prigioniero innamorato. Una sonnolenza piacevole gli velava lo spirito, togliendogli la forza e la volontà di pensare a determinate cose. Le idee venivano e passavano nella sua mente, così come le persone passavano per la via. Lo interessavano per un attimo, ma non si fermavano ed egli le dimenticava subito. Più che mai amava la solitudine e persino la presenza del compagno lo irritava, anche perché il Daga lo derideva continuamente. Noi vediamo la vita sotto aspetti ben diversi, gli diceva, cioè io la vedo e tu non la vedi. Io sono miope e vedo, attraverso lenti fortissime, le cose e le umane vicende, nitidamente, rimpicciolite. Tu sei miope e non possiedi neppure un paio d'occhiali. Talvolta, infatti, pareva ad Anania di avere un velo davanti agli occhi. Egli viveva di diffidenze e di dolore. Anche la sua passione per Margherita, in fondo, era composta di tristezza e di paura. Un giorno, agli ultimi di maggio, egli sorprese il compagno stretto in tenero amplesso con la maggiore delle padroncine. «Sei un bruto!» gli disse con disprezzo. «Non amoreggi anche con l'altra sorella? Perché ti burli di entrambe?» Ah, oh, scusami, stupido, sono loro che vengono a buttarmisi fra le braccia, le posso respingere? Chiese cinicamente il Daga. Poiché il mondo è diventato un gambero, approfittiamone. Ora sono le donne che seducono gli uomini ed io sarei più stupido di te se non mi lasciassi sedurre, fino a un certo punto. Ma perché certe cose non accadono che a certi tipi? A me no, per esempio. Oh, perché agli asini non può succedere ciò che succede agli uomini. E poi le nostre soavi padroncine hanno in fondo l'onesto desiderio di trovarsi un marito e sanno che tu sei fidanzato. Io? Fidanzato? Gridò Anania. E chi lo ha detto? Chi lo sa? È di una Margherita anche che questa volta, meno male, va gettata ante asinos. Ti proibisco di ripetere quel nome, proruppe Anania andando addosso al Daga. Capisci? Te lo proibisco! Abbasso le dita che mi cavi gli occhi, il tuo amore è feroce! Fremente di collera, Anania si mise a impacchettare i suoi libri e le sue carte. Ah, diceva a denti stretti, me ne vado subito, subito. Io non so vivere fra gente curiosa e volgare. Addio dunque, disse Battista gettandosi sul letto. Ricordati almeno che nei primi giorni che siamo giunti, se non c'ero io, rimanevi vilmente schiacciato da una carrozza. Anania uscì col cuore gonfio di fiele, si diresse automaticamente verso il corso e quasi senza avvedersene si trovò in via del seminario. Era un pomeriggio ardente, lo scirocco sbatteva le tende dei negozi, l'aria odorava di vernici, di droghe, di vivande. Anania sentiva i suoi nervi fremere come corde metalliche. In via del seminario passò in mezzo a uno stormo di chierici e di preti dalle mantelline svolazzanti e mormorò dispettosamente: Corvi! A un tratto, accanto a una piccola porta che dava su un andito buio, egli vide un numero, il numero della casa ove abitava Maria Obino. Entrò, salì all'ultimo piano e suonò. Una donna alta e pallida, vestita di nero, aprì. Egli si turbò, sembrandogli di aver veduto altra volta i grandi occhi verdastri di lei. «La signora Obino?» «Sono io», rispose la donna con voce grave. «No», egli pensò, «non è lei, non è la sua voce». Entrò. La Obinu gli fece attraversare un piccolo vestibolo buio e lo introdusse in un salottino grigio e triste. Egli si guardò attorno, vide una testa di cervo e una pelle di muflone attaccate al muro e immediatamente sentì i suoi dubbi rinascere. «Vorrei una camera. Io sono sardo, studente», disse esaminando la donna da capo a piedi. Ella era pallida e scarna, col collo lungo, il naso affilato, quasi trasparente, ma i folti capelli neri, pettinati ancora alla sarda, cioè a trecce strette, appuntate fortemente sulla nuca, le davano un'aria graziosa. «Lei è sardo? Ho piacere», rispose disinvolta. «Adesso non ho camere disponibili, ma se lei può pazientare una quindicina di giorni, ho una signorina inglese che deve partire». Egli chiese ed ottenne di vedere la camera. Il letto stava al centro, fra due cataste di libri vecchi e di oggetti antichi. Entro una vasca di gomma ancora piena d'acqua insaponata, olezzava un fascio di gaggie. Dalla finestra si scorgeva un giardinetto melanconico. Sul tavolino, Anania vide fra gli altri un volumetto che egli amava con passione dolorosa. Erano i versi di Giovanni Cena. Madre. Ho bisogno di andar via subito dalla casa dove sto. Prenderò questa camera, ma intanto non potrebbe darmene un'altra, fosse anche un buco? Rientrarono nel salottino ed egli si fermò a guardare la testa imbalsamata del cervo. Ah, è un ricordo di mio padre che era cacciatore, disse la donna sorridendo con bontà. È di Nuoro lei? Sì, ma sono nata là per caso. Anch'io sono nato per caso nel villaggio di Fonni, gli disse guardandola in viso. Sì, sono nato a Fonni. Mi chiamo Anania Aton Suderios. Ella non batté palpebra. No. Non è lei, egli pensò, e si sentì felice. Per questi 15 giorni le darò la mia camera, disse finalmente Laobinu, cedendo alle insistenze di lui, ed egli accettò. La cameretta pareva la cella di una monaca. Il lettino candido, odorante di spigo, ricordava i semplici giacigli di certe patriarcali abitazioni sarde, e come in quelle abitazioni Maria Obinu aveva appeso lungo le pareti grigie della sua camera una fila di quadretti ed immagini sacre, tre ceri, poi, e tre crocifissi. Un ramo d'olivo e un rosario che pareva di confetti pendevano in capo al letto. In un angolo ardeva una lampadina davanti a una immagine dove le sante anime del purgatorio, tinte di livido da un lapis turchino, pregavano tra fiamme insanguinate da un lapis rosso. Anania prese possesso della camera e ben presto fu riassalito dai suoi dubbi. Perché la Obinu gli cedeva la sua camera? Perché si mostrava così premurosa con lui? Mentre egli metteva a posto i suoi libri, Maria bussò e senza avanzare gli domandò se desiderava che la lampadina delle sante anime venisse spenta. No, no, egli rispose con voce forte. Venga avanti, anzi, che le faccio vedere una cosa. Ella entrò, pallida, sorridente. Pareva avesse sempre conosciuto il suo inquilino e gli volesse bene. Egli teneva fra le mani uno strano oggetto, un sacchettino di stoffa unta attaccato a una catenina annerita dal tempo. Disse mettendosi l'amuleto al collo: Veda, anche io sono devoto. Questa è la ricetta di San Giovanni che allontana le tentazioni. La donna guardava, improvvisamente cessò di sorridere e Anania sentì il suo cuore battere forte. Lei non crede a queste cose? Domandò Maria. Ebbene, se non ci crede, almeno non se ne burli. Sono cose sacrosante.